Sura di coloro che rifiutano di credere, capitolo 109 del sublime Corano, rivelata alla Mecca, consta di 6 ayat e scesa dopo la sura 107 al Ma'un. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso e il clementissimo, di, o voi che rifiutate di credere, io non adorerò ciò che voi adorate e voi non adorerete ciò che io adoro. Io non sarò adoratore di ciò che voi adorate e voi non sarete adoratori di ciò che io adoro. Voi avete la vostra religione e io la mia.